Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, si sente parlare sempre più di una ramificazione delle mafie nel nord Italia e non c'è regione che da questo fenomeno sia immune. Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, la stessa Friuli Venezia Giulia contano ormai da anni, da decenni, delle infiltrazioni che ormai sono diventate delle vere e proprie realtà criminali, anche attraverso un gioco, diciamo così, pulito e lecito di una marea di imprese che in realtà ricorrono a prestanomi di boss più o meno importanti delle nostre mafie. Una di quelle regioni che solitamente non viene mai toccata è la regione Trentino-Alto Adige, o meglio la provincia di Bolzano e la provincia di Trento. Per cercare di capire qual è il grado, diciamo così, di resistenza e di efficienza della amministrazione della giustizia in questa provincia, noi abbiamo il capo della Procura della Repubblica, Guido Rispoli, al telefono con noi. Buongiorno Rispoli. Buongiorno a lei. Allora, Rispoli, la parola mafia esiste nella provincia di Bolzano oppure non si declina proprio? Allora, sa, a rispondere a una domanda come questa la prudenza è d'obbligo, perché come lei sa bene si tratta di fenomeni criminali che diciamo non si appalesano, quindi che vivono nell'ombra e quindi diciamo è difficile cogliere con esattezza poi i contorni sia delle loro dimensioni numeriche sia della loro presenza. Quello che posso dire è che diciamo la percezione che abbiamo noi è che la mafia in provincia di Bolzano non sia presente o perlomeno non è presente in modo stanziale da quelli che sono le nostre rilevamenti. Naturalmente, essendo noi una terra di frontiera, abbiamo tutto il problema viceversa del transito sia di sostanze stupefacenti sia di capitali di provenienza illecita che passano attraverso la frontiera del Brennero, e quindi da questo punto di vista abbiamo anche a che fare con fenomeni diciamo di mafia in senso intensolato, cioè di associazioni criminali. Certo. Ecco, per chi non avesse mai avuto a che fare con il sito internet della Procura del Tribunale di Bolzano, beh, sappiate che l'efficienza passa anche da queste piccole grandi cose. Quindi segnatevi questo nome, tribunaledibolzano.net. Scoprirete che la giustizia, la pubblica amministrazione non è soltanto confusione, ma è anche invece un'ottima vetrina nel momento in cui si presenta ai suoi cittadini. Però accade anche una cosa curiosa, accade che il Bolzano, dimostrando anche in questo intelligenza, la procura di Bolzano prende le migliori pratiche in giro per l'Italia nei confronti, diciamo, della lotta a tutti i fenomeni delinquenziali criminali evoluti. E voi ricorderete che alcune settimane fa noi abbiamo avuto ospite Ugo Ricciardi, sostituto procuratore della Repubblica a Napoli, il quale con un suo collega è da anni impegnato in maniera anche abbastanza esposta alla lotta all'abusivismo edilizio. Ebbene, accadono dei piccoli miracoli in Italia, come ad esempio quello che la procura di Bolzano, per l'abbattimento degli immobili abusivi, ovviamente stiamo parlando di proporzioni diametralmente opposte tra le due province, ricorre al cosiddetto protocollo Napoli. È un piccolo miracolo, Rispoli. Sì, è vero, ma diciamo nulla di più sbagliato sarebbe pensare, da chi vive al nord, al profondo nord come siamo noi, di essere depositari del verbo delle migliori pratiche, anche perché sappiamo perfettamente che Napoli, ma anche altre realtà giudiziarie del sud Italia, in realtà poi sotto il profilo qualitativo sono in grado di esprimere cose di assoluto livello. Ecco, in particolare, diciamo, io sono procuratore da un anno e da sempre, anche prima quando ero sostituto, mi occupavo della fase della esecuzione della pena, e nell'ambito dell'esecuzione della pena una delle problematiche che a livello nazionale spesso si incontra sotto il profilo della materiale esecuzione degli ordini è proprio quello della demolizione delle opere abusive. Certo. Come lei ha detto bene, da noi anche qui il problema è sicuramente non così diffuso e sentito come in altre realtà, però anche da noi, dove ci sono tanti beni paesaggistici di particolare valore, c'è sempre stato il problema di come realizzare poi la demolizione delle opere abusive. Ecco, quindi cosa di così particolare? particolare questo protocollo che a voi piace? Ci piace del protocollo di Napoli e ci dà la possibilità, ci indica una via concreta per dare effettività alle statuizioni del giudice. Cosa voglio dire con questo? Che il protocollo di Napoli individua diciamo un iter da seguire e che, se seguito con attenzione e diciamo seguendo alcune regole, permette di arrivare al risultato finale di abbattere effettivamente l'opera, perché quello che sempre è stato il problema per le procure è che si arriva alla sentenza passata in giudicato, c'è l'ordine di demolizione, poi si arriva alla fase esecutiva e c'è un rimpallo di responsabilità su chi deve abbattere poi materialmente. Ecco, il protocollo di Napoli da questo punto di vista è molto chiaro e molto detta chiarezza e fa chiarezza sulle procedure. Bene, io sono contento di questa amabile chiacchierata con il capo della procura di Bolzano, il dottor Guido Rispoli, perché ci ha dato, diciamo così, due certezze. La prima è che la penetrazione delle mafie lì non è così invasiva come da altre parti. Sappiamo che la procura vigila anche perché ha un'efficienza che altrove non si ritrova, ma vigila anche perché ha l'intelligenza di capire che altrove ci sono delle pratiche, delle buone pratiche amministrative da adottare, soprattutto laddove nel sud ci si scontra quotidianamente con la criminalità organizzata, in questo caso con la camorra napoletana, che grandissima parte ha nell'economia criminale che nasce dal ciclo del cemento, dall'abusivismo edilizio. Quindi io ringrazio Guido Rispoli per questa chiacchierata, ringrazio Paolo Corleone in regia e Laura Fagin in redazione, e Roberto Carullo vi ringrazia salutandovi e ricordandovi il blog, il mio blog sulla home page del Sole, Guardie o Ladri, e la nostra mail sottotiro@radio24.it, alla quale potete segnalare da Bolzano a Palermo tutte le buone pratiche di resistenza alla mafia e alla pervasività della criminalità organizzata. Ancora buona giornata a tutti.